Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Buona serata e bentrovati da Francesco Galante. Questa sera con il nostro speciale dedicato agli appuntamenti, gli incontri, i convegni più interessanti organizzati in diocesi, torniamo a Cittadella per proseguire nell'ascolto del ciclo di Cittadella Ascolta dal titolo La Speranza Scartata, organizzato dalle parrocchie del Vicariato. Ospite d'eccezione il Vescovo di Padova, Claudio Cipolla, che ha dedicato la sua relazione al tema Come servire i poveri. Un'attenzione, quella ai poveri, che ha segnato fin dal suo ingresso a Padova l'Episcopato di Don Claudio, come ama farsi chiamare, e ha già prodotto progetti che segneranno i prossimi anni di impegno pastorale come i cantieri di carità e giustizia. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Il tema che mi è stato proposto effettivamente mi ha anche interessato, mi sono fermato un po' per pensarci, poi io in realtà non sono un conferenziere, vi esprimerò qualche riflessione che mi è venuta fermandomi a meditare su questo tema della speranza. E sono partito da credente e anche da celebrante, perché in questi giorni stiamo celebrando l'Eucaristia nell'ottava di Pasqua, abbiamo celebrato la veglia pasquale, e così per vario tempo continueremo su un tema che è molto importante, che noi definiamo sempre quando celebriamo la messa, nell'attesa che si compia la beata speranza. Ora, innanzitutto ho pensato che è bene che ci accordiamo che come credenti noi abbiamo una speranza che va oltre le cose anche razionali, quelle abituali, quelle umane. E in tutte le preghiere si può dire, in questo tempo noi facciamo un riferimento ad una speranza con la S maiuscola, che riguarda una vita per noi dopo questa vita. Siccome siamo abituati a parlare di vita eterna, ci sfugge un po' la portata di questa fede che noi coltiviamo. Ci sfugge l'idea che noi non viviamo delle nostre speranze, ma di questa speranza grande che proprio per Pasqua mettiamo al centro della nostra fede. Noi crediamo che Gesù oggi è vivo e che ci inserisce con il nostro battesimo nella sua vita che non ha fine. Noi abbiamo già iniziato la nostra vita eterna nel momento del battesimo. Ecco, così forte questa fede che la morte, la stessa morte, non interrompe la nostra vita, la chiamiamo passaggio. È un passaggio da una condizione ad un'altra condizione. Ma la vita che ci viene donata nel battesimo non muore più, non terminerà, è partecipazione alla vita stessa di Gesù. Abbiamo in noi un seme immortale. Questa è la nostra speranza. Non moriremo, se non materialmente, fisicamente, il nostro corpo. Ma la mia identità non scompare, anzi, è destinata ad avere conferma e a realizzarsi pienamente. Questa è la nostra speranza, la chiamiamo vita eterna, possiamo chiamarlo paradiso, la vita che non termina con la nostra morte, il regno dei cieli, vita della risurrezione. Abbiamo molti modi con i quali noi andiamo a questa speranza. questo è quello che ci sostiene. Qualcuno dice che questa è un po', rischia di essere un po' una fuga, perché siccome noi ci aspettiamo una vita e crediamo in una vita che va oltre la morte, e questo diventa il fine del nostro vivere, non la fine, diventa il fine. Allora qualcuno ha sospettato che noi ci impegnassimo un po' meno nelle cose reali, quelle di tutti i giorni, perché tanto noi contiamo sulla vita dell'aldilà. In realtà io penso che sia proprio il contrario. Proprio perché abbiamo questa fede che non tutto si esaurisce in questo nostro orizzonte, possiamo impegnarci di più, e dopo vorrei parlarne anche. Dobbiamo impegnarci di più, e troviamo la forza e troviamo il coraggio, proprio perché ci attendiamo una condizione nuova e diversa che viene da Dio, che ci è stata inaugurata da Dio. Noi troviamo la forza e il coraggio di impegnarci qua, al punto che se c'è un problema, almeno che penso che di poter condividere con voi, se c'è un problema che ritengo stia condizionando il nostro vivere anche sociale, è proprio la crisi spirituale nella quale noi viviamo. E ho ascoltato un giorno una conferenza, una bella conferenza del professor Magatti, non so se voi avete avuto occasione di conoscerlo, preside della facoltà di sociologia della Cattolica di Milano, il quale diceva questo, che in fondo la crisi economica che stiamo attraversando non è in realtà una crisi data dall'economia, dai soldi, da queste convergenze, forse anche questo concorre, ma è innanzitutto una crisi spirituale. E spiegava in questi termini, diceva, perché nel dopoguerra le nostre famiglie dovevano costruire tutto, il lavoro, la casa, c'era una ricostruzione per le prospettive, i figli erano contenti se si riusciva a mandarli a scuola, c'era il problema dei vestiti, una condizione di povertà così diffusa che tutti avevano tanto da fare, tanto da raggiungere, avevano degli obiettivi. Poi, con la nostra fortuna, con la crescita della nostra condizione sociale ed economica, abbiamo tutti avuto la possibilità di offrire ai nostri figli quello di cui hanno bisogno, dal punto di vista educativo, della formazione, della salute, del riposo, c'era di più di adesso, ma un certo benessere, anche un lavoro possibile, no, da acquisire. Ma a questo punto ci si chiede perché vivere? Cioè perché sono al mondo? Che cosa devo realizzare con la mia vita? Perché per mio papà e mia mamma era importante andare a lavorare, perché dovevano tirar su me, dovevano darci quello che era difficile da ottenere normalmente per i poveri, per la povera gente, e quindi si sono impegnati tanto, cioè avevano grandi motivazioni. Oggi noi ai ragazzi diamo già tutto, loro hanno tutto. Hanno il benessere, hanno magari anche un po' la casa, hanno gli studi garantiti se vogliono. E che cosa, perché vivono? Devono studiare come passare il weekend o come passare le vacanze, dove andare. cioè siamo indotti sostanzialmente come società a ritornare nella fase più adolescenziale, quando si pensa innanzitutto per se stessi. Allora oggi la nostra società ha questa crisi, sta ritornando ad essere, diciamo, in una condizione di non responsabilità, in cui in forma un po' adolescenziale si pensa come potersi divertire, non come poter conquistare qualche cosa di importante per vivere, di necessario per vivere. E questa crisi porta tanti uomini e tante donne ad essere appunto in difficoltà in ordine a che cosa sperare. E da qui nasce una crisi che è più profonda di quella soltanto economica. È una crisi di senso. Che cosa ci facciamo? Per che cosa dobbiamo combattere? Per che cosa dobbiamo lavorare? E possiamo chiederci anche perché lavorare, quando abbiamo già un po' di patrimonio. Io ricordo un giovane che aveva tanti soldi, però questo, che mi diceva, lui non era impegnato a concludere l'università, quando ha concluso l'università per trovarsi il lavoro, però mi diceva a un certo punto, ma i miei hanno messo via tanti soldi, bisognerà che qualcuno li usi. Aveva ragione in un certo senso, ecco, dopo per fortuna ha ritrovato la necessità di dare un senso alla sua vita, appunto un senso. Ecco, la nostra crisi, penso, che abbia molto le note della spiritualità, più che quelle della materialità. È una crisi di questo tipo. E possiamo chiederci quindi, se quando noi pensiamo ai poveri, non dobbiamo proprio pensare innanzitutto che per combattere la povertà non si debba combattere proprio la crisi di senso, la crisi di spiritualità nella quale noi facilmente cadiamo o siamo caduti. Il secondo pensiero che volevo dire era questo, riguardo il rapporto questa speranza che alla sua, che per noi cristiani si alimenta proprio su versanti molto grandi, no? La speranza di una vita dopo questa vita e le nostre piccole speranze necessarie, importanti. La speranza cristiana per noi diventa quindi la forza che si traduce in energie per migliorare il nostro mondo, e per mondo intendo la realtà nella quale noi viviamo. Vorrei leggervi qualche passo dell'Evangelii Gaudium. Ad esempio, al numero 582 dice Francesco, Papa Francesco: sappiamo che Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra, benché siano chiamati alla pienezza eterna, perché Egli ha creato tutte le cose perché possiamo goderne, perché tutti possano goderne. Ne deriva che la conversione cristiana esige di riconsiderare specialmente tutto ciò che concerne l'ordine sociale e il conseguimento del bene comune. Cioè il nostro sperare, siccome sappiamo che la speranza è per tutti, richiede che noi ci impegniamo proprio nel costruire giustizia, pace, fraternità su questo mondo. Si tradisce la nostra fede nel momento in cui separiamo la felicità eterna dalla felicità di cui tutti gli uomini hanno diritto, o quando soltanto alcuni possono essere felici a scapito di molti altri. La speranza, quindi, è il motivo per aiutare tutti a saper essere felici. Poi dice: una fede autentica implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra. Vedete come la spiritualità diventa anima del nostro cuore. Quello che dà coraggio, che dà forza. Questo passaggio, noi chiamiamo un passaggio, quello sulla terra, è perché diamo il nostro servizio perché il mondo possa essere migliore. E poi dice: la terra è la nostra casa comune e tutti siamo fratelli, sebbene il giusto ordine della società e dello Stato sia il compito principale della politica. La Chiesa non può né deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia. Anche questa è una cosa molto importante, perché i preti in chiesa dicono le loro cose, ci pensiamo noi. Certo, c'è una libertà, non una libertà, un dovere, no, della politica, dell'organizzazione che una città si dà, di servire la giustizia, di servire la pace. Ma noi, che siamo credenti in Gesù, noi non possiamo dire non ci interessa il bene comune, non ci interessa la crescita dei poveri, non ci dobbiamo occupare dell'ingiustizia, no? E voi vedete quanto, forse in modo sufficiente, però quanto stiamo lottando a favore di tante situazioni di povertà. Papa Francesco lo fa più con i gesti che con le parole, però anche con le parole non è oscuro nel suo pensiero. È interesse di tutti la crescita del nostro convivere come uomini. La nostra fede orienta un'azione trasformatrice. E in questo senso non cessa di essere un segno di speranza che sgorga dal cuore pieno d'amore di Gesù Cristo. Proprio perché crediamo in Gesù, noi abbiamo coraggio, forza, che forse in altri contesti rischia di restare così, nascosta. È per questi motivi che l'anno scorso, in occasione della festa di Sant'Antonio, io avevo chiesto che si costituissero dei cantieri che avevamo definito cantieri di carità e di giustizia. Vi voglio spiegare un po' questo, dopo capirete anche il perché, spero. Perché noi cristiani dobbiamo occuparcene di queste attenzioni, dobbiamo avere queste attenzioni, però non lo possiamo fare senza un minimo di sguardo, di visione, anche di prospettive. Allora io ho visto che in città, soprattutto eravamo partiti dalle cucine popolari, no? C'era bisogno, parlo di città di Padova, ma credo che la cosa possa essere estesa anche a tutte, soprattutto i paesi più grandi, compreso Cittadella, ma forse anche nei paesi meno grandi. No? Cioè c'è bisogno che anche l'attenzione nei confronti di chi è in situazione di difficoltà sia in qualche modo organizzata, perché noi veniamo dall'esperienza della beneficenza, quando in termini individuali o per il carisma di qualcuno si dà, si opera un'azione benefica nei confronti di persone in difficoltà. E già si era maturata l'idea che da queste azioni si dovesse passare a dei diritti. Paolo VI usava questa espressione, forse in concilio, no? Che non si deve dare per carità ciò che è dovuto per giustizia. E noi cristiani dobbiamo lavorare perché siano riconosciuti i diritti dei cittadini in difficoltà, in modo che non debba essere dato per carità, perché siamo buoni di cuore, perché questo giorno abbiamo questa disponibilità o questa generosità, ma perché si è riconosciuto come un diritto di tutti l'accesso a ciò che è necessario per vivere dignitosamente. Allora, queste due parole, carità e giustizia, devono camminare sempre insieme. La carità è qualcosa che va oltre la giustizia o anticipa la giustizia, ma richiama la necessità di riconoscere il diritto di tutti di essere aiutati nei momenti delle difficoltà. E allora abbiamo fatto in città, il programma è questo, perché non è ancora concluso il lavoro di questi cantieri, una rilevazione della storia che abbiamo vissuto noi come cristiani. Sarebbe interessante che anche qua si pensasse quale storia di carità e di carità che poi sono poi si sono trasformati in diritti riconosciuti. Quale storia si è avuta a Cittadella? Quali memorie abbiamo di persone, di luoghi, di esperienze che sono state vissute per carità? Ma gli stessi asili, in tanti casi gli stessi ospedali, le scuole, le cucine, sono nate come frutto di questa speranza cristiana che ci impegnava a migliorare le condizioni di tutti, soprattutto dei più poveri. E lo abbiamo fatto quando non c'era ancora la maturità della nostra società. E l'abbiamo fatto con atti di generosità. Molti dei nostri istituti religiosi sono nati così, con donne e uomini che si mettevano a disposizione per aiutare chi era più povero. Ospedali, case di riposo, le stesse banche, casse rurali, frutto di questa fantasia della fede che cercava strade per aiutare chi era più in difficoltà. E noi abbiamo una storia, penso, bellissima, come Chiesa Padovana, che poi si è espressa addirittura nell'andare in Brasile, in Kenya, e veramente una generosità che nasceva da questa fede che ci ha portato a donarci come Chiesa, e abbiamo seminato davvero tanto e abbiamo innescato delle dinamiche per cui a poco la nostra stessa società ha saputo crescere e è arrivato il diritto allo studio, il diritto all'assistenza sanitaria, il diritto, sono arrivati i diritti, e dobbiamo stare molto attenti a conservare ed eventualmente a consolidare i diritti che abbiamo acquisito, che non si ritorni a servire i poveri con la beneficenza, affidando semplicemente a privati, alla generosità o al volontariato. Ecco il cammino. Allora, i cantieri che noi abbiamo messo in atto sono lì. Prima cosa, di ricordare la nostra storia. La secondo aspetto è quello di rilevare l'attuale disponibilità, molto più arricchita, perché oggi non ci sono più soltanto le congregazioni religiose, anzi, quelle sono più in difficoltà, però sono cresciute associazioni di volontariato, realtà di promozione sociale sostanzialmente, no? Cooperative, iniziative anche private, indubbiamente, no? E ci sono tanti servizi che vengono oggi riconosciuti, e c'è un rilievo che noi possiamo fare. E possiamo anche chiederci, quando uno attraversa nella sua vita un momento di difficoltà, dove trova la risposta? Noi ce ne accorgiamo soltanto quando ci siamo in mezzo. purtroppo non sempre ci accorgiamo se non siamo toccati direttamente, ma dobbiamo fare questo sforzo. E il terzo passaggio, che non è ancora stato realizzato, sarà invece quello di dire come città possiamo pensare ad un piano complessivo che mette insieme tutti, non sostituendo o coprendo o mettendo in disparte qualcuno, cioè non lo Stato o l'ente pubblico che fa al posto di tutti, ma che sa valorizzare invece il contributo di tutti. Sa sostanzialmente il compito di un ente pubblico è quello di leggere la situazione, diceva Monsignor Nervo, fondatore della Caritas Italiana, nostro parte della nostra diocesi, no? E per leggere la situazione, progettare gli interventi, quindi elaborare un percorso di risposta ai bisogni che sono stati rilevati, e infine controllare quello che si è composto, quello che si è realizzato, la funzione del controllo. Questi sono compiti molto importanti. Ecco, allora, anche nelle nostre città, mettendo le situazioni di povertà che ci vedono sempre come deboli al centro, possiamo immaginare un piano comunitario, collettivo, di risposta a queste povertà. Dopo ci sarà l'associazione di volontariato che fa una cosa, la cooperativa che viene incaricata di un'altra, la comunità religiosa che ne fa un'altra ancora, facendo in modo che ci sia una visione insieme. Ecco, questo per dire come dalla nostra fede noi dobbiamo passare alla concretezza. Dobbiamo, la speranza, grande speranza cristiana, ci mette in movimento proprio perché sappiamo migliorare il mondo nel quale viviamo. Per mondo nel quale viviamo, io penso innanzitutto al territorio di cui facciamo parte, perché servendo il territorio, migliorando il nostro territorio, inneschiamo un meccanismo di miglioramento, di confronto con gli altri territori. Per questo motivo, allora, mi sembra che sia molto importante giocarci dentro le cose che riguardano le nostre realtà terrene, proprio in forza di una speranza che è più grande di noi. Facendo questi discorsi, e qui adesso vi risveglio, facendo questi discorsi, voi potreste dire, qualcuno potrebbe anche pensare, però anche noi siamo deboli. Sono bellissimi questi, c'è la nostra speranza, la grande speranza di cui il Signore ci ha fatto dono, questa speranza che ci aiuta a impegnarci, a lottare, a dedicarci per le missioni, per i poveri, per quelli che sono soli. In questo periodo è nota l'attenzione al tema degli immigrati, meglio più degli immigrati, dei profughi. Certo, noi ci impegniamo in tutte queste cose, però dopo saltano fuori anche tutti i nostri peccati, i nostri limiti, che mettono in discussione la credibilità del nostro parlare e del nostro operare. E questa è la difficoltà nella quale spesso noi ci incontriamo. Noi, personalmente, le nostre famiglie, le nostre comunità cristiane non vivono soltanto di questi ideali, vivono anche della concretezza dei propri peccati, purtroppo. Allora come possiamo fare? caso qualche brano di Papa Francesco. Il primo è al numero 76, e dico soltanto quando io sono qui, in un anno vado in tempo già a farmi una certa esperienza, che vi ringrazio anche del sostegno morale che ho ricevuto da tanti, anche dalle parrocchie, eccetera, ma davvero ho fatto un'esperienza abbastanza forte per poter dire che come nelle nostre famiglie, anche nella nostra Chiesa, dobbiamo saper navigare in mezzo alle bufere. Le bufere nessuno le può fermare. Quello che è importante è saper tenere fermo il timone, saper andare in mezzo alle bufere, attraversarle. Questo è importante. Allora dice Francesco: sento una gratitudine immensa per l'impegno di tutti coloro che lavorano nella Chiesa. Anch'io devo dire che condivido proprio questa espressione. Il nostro dolore e la nostra vergogna per i peccati di alcuni membri della Chiesa e per i propri non devono far dimenticare quanti cristiani danno la vita per amore. Aiutano tanta gente a curarsi e a morire in pace in precari ospedali, o accompagnano le persone rese schiave da diverse dipendenze nei luoghi più poveri della terra, o si prodigano nell'educazione dei bambini e giovani, o si prendono cura di anziani abbandonati da tutti, o cercano di comunicare valori in ambienti ostili, o si dedicano in molti altri modi che mostrano l'immenso amore per l'umanità ispiratoci dal Dio fatto uomo. Ringrazio per il bel esempio che mi danno tanti cristiani che offrono la loro vita e il loro tempo con gioia. Questa testimonianza mi fa tanto bene e mi sostiene la mia personale aspirazione a superare l'egoismo per spendermi di più. Prima considerazione che condivido. Ora, in mezzo a questa burrasca, a queste burrasche che attraversiamo mentre puntiamo verso questa grande speranza, dice: ma guardiamo anche tutto il bene. I nostri giornali parlano soltanto dei drammi e delle cose gravi che succedono, perché quello fa clamore, ma tutto il bene che le nostre comunità e i nostri cristiani stanno svolgendo, non soltanto per la Chiesa o per componenti della Chiesa, ma veramente per tutti. Io non sto, prima ne abbiamo un po' accennato, ma non voglio parlarne, pensate davvero alla storia di questi decenni, no? A livello di scuole, di ospedali, di povertà, insomma, io credo che davvero possiamo umilmente, perché questa qui è grazia, possiamo essere riconoscenti al Signore che si è servito di noi. Però qualche cosa lo dico, l'OPSA. 600 persone portatrici di handicap, ospiti, ormai da decenni. Il CUA, con tutte le attività a livello sanitario che vengono svolte in Africa. Io penso che, solo per citare due realtà grandi, ma le nostre cucine popolari, ripeto, personaggi, Monsignor Nervo, Monsignor Pasini, sono solo alcuni, io sono l'ultimo arrivato, quindi sono quello che conosce di meno. Davvero, guardiamo al tanto bene che abbiamo saputo vivere, che il Signore ci ha dato la grazia di poter compiere. E ecco, attraversando le bufere, ricordiamoci di questo, ma anche per noi personalmente, perché io sono convinto che tutti noi abbiamo fatto tanto bene nella nostra vita, abbiamo fatto anche degli errori, ma il bene che abbiamo compiuto è senz'altro molto più grande, molto più intenso, molto più vero, rappresenta molto di più la nostra vita, degli errori e dei peccati che abbiamo commesso. E il Signore vede tutta una vita, non vede soltanto l'errore che abbiamo commesso o il peccato che abbiamo commesso. E dobbiamo collocarci in questo quadro. Ecco, poi al numero 84, dico perché se voleste andare a vedere, i mali del nostro mondo, dice Francesco, e quelli della Chiesa non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro fervore. Consideriamoli come sfide per crescere. Ecco perché mi piace. Perché quando noi guardiamo ai nostri insuccessi, cadiamo facilmente in una tentazione, che è quella di deprezzarci, di scoraggiarci, di dire io ho sbagliato, quindi non valgo nulla. No, non è vero questo. Questa qui è proprio una tentazione, è il rischio che noi corriamo di seguire, di intraprendere la strada del disimpegno, della sfiducia in noi stessi e nella possibilità di migliorare. E invece di essere protagonisti della nostra vita, rischiamo di diventare seduti, uomini e donne seduti, che guardano gli altri e guardano gli errori che commettono gli altri. Questo è il rischio che noi corriamo, di restare sfiduciati. E questa è la tentazione grave, e il diavolo, potremmo dire, raggiunge il suo risultato. Invece, dice Francesco, consideriamoli come sfide per crescere. Che cosa vuol dire? Che io guardo, io vedo il mio male e capisco che devo fare ancora della strada. Non sono ancora arrivato. Il male che io compio è un'occasione per capire quali sono le strade e i passi che ancora devo fare. Questo è il modo di rapportarci con il nostro male, con il nostro peccato. Non lasciarci vincere e schiacciare, ma dire devo ancora camminare, ho ancora dei passi. Sono le sfide che a noi vengono proposte e che noi dobbiamo vivere, anzi, come tali. La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata, a scoprire il grano che cresce in mezzo alla zizzania. C'è della zizzania, ma sta crescendo anche il grano, e noi dobbiamo fare tutto il possibile perché cresca questo grano. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l'audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti, scontenti e disincantati dalla faccia sua. E purtroppo questo riguarda anche le nostre comunità. Anche le nostre comunità rischiano di spegnersi, di rinchiudersi, quasi perché prendono coscienza dei propri limiti, delle proprie difficoltà, e quindi smettono di essere vive. Non riguarda soltanto noi come persone, ma noi come famiglie e noi anche come comunità. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi per vinti e ricordare quello che disse il Signore San Paolo: mi basta la mia grazia. Quindi bisogna andare avanti. Cioè, noi cristiani, noi lavoriamo, siamo gli uomini cultori del bene. Anche se sbagliamo, non abbiamo un'altra strada. Questa è la nostra unica strada. Abbiamo solo la possibilità di riprenderci e di riprendere il nostro cammino per il bene. Ecco, da qui allora noi possiamo capire come si possono attraversare le bufere e le burrasche, e come queste bufere, queste burrasche diventano degli stimoli per continuare il cammino che è stato assegnato per ciascuno di noi. È evidente che in alcuni luoghi è prodotta una desertificazione spirituale, frutto del progetto di società che vogliono costruirsi senza Dio o che distruggono le loro radici cristiane. Lì il mondo cristiano sta diventando sterile e si esaurisce come una terra super sfruttata che si trasforma in sabbia. Sempre Francesco che parla. No, cioè, il rischio, ritorniamo all'idea spirituale, che noi, quasi come se fossimo super sfruttati, no? A un certo punto diventiamo un deserto. Le nostre comunità, noi come cristiani, non produciamo più. Non produciamo più frutti di bene, non produciamo più frutti anche di fantasia, di creatività, di novità. Noi non dobbiamo soltanto conservare, noi dobbiamo proprio fare dei passi in avanti, continuare ad essere rigogliosi anche, dice un salmo, anche quando siamo anziani, come ruscelli, come piantati lungo ruscelli, portiamo ancora, siamo ancora rigogliosi e portiamo ancora frutto. Ecco, quindi San Lazzaro, Legnaro e tante altre storie comunitarie, ma ripeto, magari fossero solo queste. Nelle nostre famiglie ci sono drammi ancora più pesanti da portare, e anche nella nostra storia personale si attraversano drammi difficili da portare. Ecco perché allora mi sembrava molto importante un'altra cosa che ho fatto e che giustifico in questo momento, no? Quello del Sinodo dei Giovani. Sapete perché? Uno dei motivi particolari perché ho pensato al Sinodo dei Giovani è perché i giovani hanno ancora quegli ideali, quelle speranze che non sono state tarpate o offese dai fallimenti del nostro vivere. E le nostre comunità hanno bisogno di essere trascinate dai giovani, altrimenti invecchiano. E lo stile con il quale vogliamo lavorare è proprio quello di rendere loro protagonisti. Non diranno le loro cose agli adulti e poi gli adulti capiranno, le diranno ad altri giovani e alla fine dovranno consegnare il risultato senza che sia passato dalle mani di voi adulti, per adulti intendo dai 35 anni in avanti, no? Ecco, perché abbiamo dato questa come punto di riferimento dai 18 ai 35 anni circa, ecco, senza che siano passati dalle mani filtrandoli di noi adulti, verrà consegnato il risultato a me come vescovo, cioè alla Chiesa, e dopo vedremo come poterne come poterne utilizzare, come poterne farne tesoro di quello che diranno. Ma la mia speranza è proprio che loro possano parlare, possano dire quello che sentono. Io, e penso anche tutti voi, le cose più belle della nostra vita le abbiamo pensate quando eravamo giovani e poi abbiamo cercato di essere fedeli. Alla fine vorrei dire questo, che il rapporto tra noi cristiani e la speranza che ci anima e i poveri non si gioca innanzitutto in quanto facciamo per i poveri, in quanti soldi o in quanta generosità o in quali iniziative, ma si gioca innanzitutto sul piano spirituale. Quello della fede e della motivazione e delle motivazioni. Perché? Cioè, come la nostra fede nella risurrezione di Gesù, la nostra speranza in una vita eterna, riesce a dare vita alle nostre giornate e al nostro vivere. E la sensazione è che la crisi di fede comporti un abbassamento della qualità del nostro vivere sociale. Ed è da qui che nascono i poveri. Ed è da qui che noi organizziamo risposte che sono insufficienti per i poveri. In secondo luogo, diventa evidente che il modo per aiutare i poveri è quello di guardare alla dimensione educativa delle nostre famiglie, alla capacità educativa delle nostre famiglie e delle nostre comunità, cioè come noi stiamo educando, a quali sentimenti, a quali valori, a quali speranze stiamo educando i nostri ragazzi, i nostri bambini o i nostri giovani. In fondo il modo di combattere anche la crisi economica è quello di dare vita, di dare speranza, di dare senso a quello che i nostri ragazzi fanno o vogliono fare. Che cosa faranno da grandi? Noi siamo abituati a pensare in termini appunto abbastanza materiali. Dobbiamo chiederci invece quali valori vorremmo educare in loro. I poveri, in questo senso, non possono essere una categoria a parte, qualcuno che è di fronte a noi. Il Papa parla di inclusione. Sono noi, sono parte della nostra vita. E noi possiamo lavorare per i poveri nella misura in cui cambiamo il nostro modo di pensare, il nostro modo di credere, di guardare appunto al futuro delle nostre comunità, anche della nostra società. Le nostre parrocchie stesse, anche le nostre organizzazioni, devono essere, penso, più capaci di sognare, più capaci di educare, che di gestire e di fare, perché soltanto sognando e soltanto cercando questi risvolti spirituali noi riusciamo ad essere molto più attivi, molto più capaci anche di operare. Concludo con una bella frase di Goethe, e così sono sempre belle le frasi conclusive, sono necessarie. C'è una verità elementare la cui ignoranza uccide innumerevoli idee e splendidi piani. Nel momento in cui uno si impegna a fondo, anche la provvidenza allora si muove. Infinite cose accadono per aiutarlo, cose che altrimenti mai sarebbero avvenute. E quindi io capisco questo, cioè nel momento in cui noi diamo anche ai nostri giovani questi ideali, consegniamo questi ideali perché sono nostri, succedono cose nuove e belle. Qualunque cosa tu possa fare o sognare di poter fare, incomincia. L'audacia ha in sé genio, potere e magia. Incominciala adesso. I giorni della Chiesa. Queste le parole del Vescovo di Padova Claudio Cipolla, che ha dedicato la sua relazione al tema come servire i poveri in questo appuntamento di Cittadella Ascolta dal titolo La speranza scartata, organizzato dalle parrocchie del Vicariato. Domani, ultimo appuntamento con questo ciclo di Cittadella Ascolta, il nostro ospite sarà Luca Pancalli, avremo modo di ascoltarlo, 3 medaglie d'oro alle Paralimpiadi di Seul. Ancora a tutti voi un buon proseguimento di serata da Francesco Galante. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.